Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo dalle borse, che restano negative anche se di poco, meno 0,33%, si avvia a chiudere così l'ultima seduta della settimana a Milano, meno 0,26% Parigi, meno 0,33% anche Francoforte e meno 0,29% Londra. L'euro a quota sempre 1,29,70, spicca in borsa il caso di ST Microelectronics, che è arrivata a guadagnare oltre il 14% sia a Milano, molto forte anche a Parigi, nonostante, e adesso guadagna il 6,70, nonostante sia stata smentita l'ipotesi di uno scorporo che potrebbe portare alla vendita della divisione che produce i microchips, i semiconduttori nella telefonia mobile. Nonostante la smentita, evidentemente c'è ancora chi ci crede e il titolo continua a essere comprato. Bene anche Mediaset più 2,70%, anticipazione di stampa, ci sarebbe un avvicinamento ai vertici di Publitalia, e poi Generali più 1%, Tods più 0,90%. Invece sul fronte opposto segnaliamo Saipem in calo netto e anche pesante, meno 5,50%, Fiat meno 2%, Exor meno 1,90%, Popolare di Milano meno 1,70%, Impregilo meno 1,50%, Pirelli meno 1,40%, Unicredit meno 1,30%, Ansaldo meno 1%, come Telecom Italia, nel giorno in cui la Procura di Milano ha chiuso le indagini a carico di Marco Tronchetti Provera con l'accusa di ricettazione per il caso cosiddetto Kroll, quello però che rientra nell'ambito della vicenda più ampia dei dossier illegali, no? Il gruppo Tiger, Tavaroli e Mancini coinvolti. Questo per quello che riguarda la vicenda anche giudiziaria. Per quello che riguarda invece i temi di cui ci occuperemo, partiremo subito con quanto oggi il Sole 24 Ore ha anticipato, devo dire in esclusiva, ossia con un elemento del documento di stabilità economica, della legge che abbiamo chiamato mini manovra, anzi mini mica tanto perché vale 11 miliardi e 6, manovra correttiva, si chiama adesso legge di stabilità e fisco, però si capisce di più, ossia i limiti alle detrazioni e deduzioni fiscali, quelli decisi appunto con la legge di stabilità, scatteranno già da quest'anno e quindi saranno retroattivi, mentre i ritocchi alle aliquote IRPEF e quindi il taglio di un punto percentuale sulle prime due aliquote partirà dal 2013, per cui saranno retroattive le norme per esempio che introducono la franchigia di 250 euro per deduzioni e detrazioni e il tetto di 3.000 euro per le detrazioni, e questo è importante perché bisognerà tenerne conto poi nella dichiarazione dei redditi del 2013. E i benefici invece della riduzione delle due aliquote dal 23% al 22% e dal 27% al 26%, scattando dal 1 gennaio 2013, saranno invece visibili solo un anno dopo, quindi nelle dichiarazioni dei redditi del 2014. Tra l'altro ne parleremo anche perché oggi, sempre Sole 24 Ore, va a vedere l'IRPEF meno cara, ma l'IVA più cara, chi ci guadagna? Cioè qual è il cosiddetto trade-off, come direbbero in inglese, lo scambio tra un'IVA più cara dell'1% e l'IRPEF meno cara nelle prime due aliquote? Vi dico subito che ci perdono tutti, faremo qualche esempio, sia single, sia coppia con figli, sia coppia di mezza età, sia coppia di mezza età con due figli. Tutti i casi allo studio dimostrano come ci perda alla fine cittadino, quindi il costo sarà più alto per il contribuente rispetto ai vantaggi derivanti dall'IRPEF. 349-238-6666 per i vostri sms. Nella seconda parte del programma ci occuperemo invece sia della manovra che di quanto sta capitando in Europa e l'allarme lanciato oggi anche dal Fondo Monetario Internazionale. Partiamo allora subito con questo, con le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri SMS. Iniziamo proprio dalle quotazioni di oro e petrolio, come sempre: $1,771 in Asia l'oro, 92,32 dollari al barile invece il petrolio a New York, in leggero rialzo. Arrivano notizie dall'America, dove le banche d'affari, non solo adesso, come abbiamo raccontato ieri, l'altro ieri, sono tutte indirizzate a le grandi banche d'affari, quelle all'origine della crisi del 2008, per investimenti speculativi, per rischi presi che poi si sono rivelati ingestibili, per avere spacchettato i debiti e creato una montagna di carta. Bene, quelle banche lì già da alcuni anni hanno recuperato tutto quanto hanno perso, mentre l'economia cosiddetta reale annaspa, in alcuni casi anche affoga. E oggi lo capiamo perché JP Morgan ha archiviato un terzo trimestre con un utile record, mai stato così alto l'utile della banca d'affari JP Morgan, 5 miliardi e 710 milioni di dollari di utile in un trimestre. E utile record anche per Wells Fargo, altra banca banca americana che però è leader nel settore dei mutui. Utile record, dicevo, a 4 miliardi e 940 milioni. Sia per Wells Fargo che per JP Morgan, il balzo dell'utile si deve in buona parte all'aumento dei ricavi nel settore dei mutui casa. Comunque, nel caso di JP Morgan, hanno avuto una crescita del 72% i ricavi. Lo spread italiano è fermo a è leggermente sotto i 350 punti, però toccherà risvegliare un uccello oggi, a voi noto, ahimè, perché io capisco tutto. Già il Fondo Monetario Internazionale l'altro ieri ha detto: attenzione, possibili svalutazioni degli asset, delle partecipazioni bancarie, fino a 4.500 miliardi di dollari, di euro in Europa. Ho capito, significa creare un po' d'allarmismo, ma oggi ci pensa sia l'Unione Europea che il Fondo Monetario Internazionale. Da dove partiamo? Partiamo dall'Unione Europea, in cui il rapporto del commissario Van Rompuy dice: attenzione, bisognerà sviluppare gradualmente una capacità fiscale dell'unione monetaria per facilitare l'aggiustamento degli shock asimmetrici. E va bene. Il fondo ESM potrà ricapitalizzare direttamente le banche non appena sarà stabilito il meccanismo di supervisione bancaria unica. E per realizzare queste riforme destinate a promuovere crescita e lavoro potranno essere siglati contratti individuali vincolanti tra i singoli stati membri e le istituzioni europee. E questo fin qua tutto bene. Però poi, nel frattempo, il Fondo Monetario Internazionale dice: attenzione, l'allarme debito ormai è al livello massimo dalla Seconda Guerra Mondiale. Il rapporto debito-PIL nelle economie avanzate ha raggiunto il livello più alto dalla Seconda Guerra Mondiale e il più grande ostacolo alla crescita sarà il pesante debito pubblico nelle economie avanzate, stimato a circa il 110%. Però poi si accorge anche del fatto che, sempre il Fondo Monetario Internazionale, attraverso il direttore generale dell'International Labour Organization, che dall'inizio della crisi i disoccupati nel mondo sono saliti di 30 milioni. praticamente sono complessivamente 200 milioni, di cui 75 milioni i giovani. E dice Ryder, le misure di austerità adottate nel mondo hanno avuto effetti più forti di quelli previsti. Io non ci posso credere. E ora 900 milioni di occupati hanno comunque un livello di reddito che resta al di sotto della soglia di povertà. Ed è la seconda volta in due giorni che il Fondo Monetario Internazionale chiede venia. Allora, io ricordo che la dottrina di rigore, tagli, rafforzare la valuta, ridurre il deficit è una dottrina non solo tedesca ma anche e soprattutto del Fondo Monetario Internazionale, che adesso dice attenzione, siamo a debiti alti, disoccupati record, e si rende conto che forse il rigore chiesto forse ha creato effetti più forti di quelli desiderati. Un bel gufo scaramantico anche al fondo. Intanto l'Italia scivola e perde posizione a livello internazionale in termini di PIL pro capite. Secondo uno studio del Fondo Monetario Internazionale, il nostro paese è passato in 10 anni dal 26esimo al 30esimo posto, sotto addirittura la Spagna e le Bahamas. Anche l'Irlanda fa meglio di noi come PIL pro capite. Nel frattempo il Premier Mario Monti dice, relativamente all'Expo, l'Expo 2015 sarà fatto bene in tempo, il governo vigilerà, il 2015 è un'occasione eccezionale per la ripresa economica, non appena l'Expo 2015, scusatemi, è un'occasione eccezionale per la ripresa economica non appena essa si presenterà. Penso che l'Expo sia un'eccezionale occasione per agganciare la ripresa dell'economia appena essa si presenterà, e non stiamo certo passivi in attesa che si presenti. Come sapete, siamo molto impegnati nel nostro paese per avvicinare questo momento e sempre di più in quell'insieme di paesi con una visione, spero, sempre più unitaria, che è l'Unione Europea, che detiene tanto delle chiavi della crescita nel nostro continente. Per questo nel documento strategico del governo ad accompagnamento dell'Expo sono indicate le politiche che, coerentemente al programma di governo, promuoveranno i cambiamenti preconizzati dall'Expo. Expo 2015 è una grande opportunità di riprogettare il Paese e per questo necessita di un ruolo forte di coordinamento del governo, perché interessa e può rappresentare un asset importante di sviluppo dell'economia italiana per i prossimi anni. Non si deve vedere l'Expo solo come un grande evento, ma come un grande progetto sistemico che deve vedere fianco a fianco, come sta vedendo, governo nazionale, istituzioni territoriali come la Regione Lombardia, il Comune e la Provincia di Milano, ma anche tutte le altre regioni italiane e il sistema delle imprese. Va bene, c'è chi critica la nostra critica al Fondo Monetario Internazionale. No, guardate, è da due giorni che il Fondo Monetario Internazionale dice che forse bisogna ripensare gli effetti prociclici, cioè che aumentano in questo caso la recessione delle politiche di rigore chieste. Io non so se qualcuno si è accorto che da quando chiediamo questo rigore, che pure va attuato, ma non con questi tempi, la Grecia si sta beccando 6 anni di recessione, la Spagna 4 anni di recessione, i disoccupati aumentano, il PIL non riparte. Cioè, da qualche parte bisognerà anche ammettere che di soli tagli non si vive, fermo restando che non si può continuare a sprecare in questo paese risorse pubbliche come raccontiamo ogni giorno. Comunque Monti ha anche assicurato che il governo, le province e i comuni sono tutte impegnate a combattere gli sprechi. Non ha citato le regioni, sarà un caso. No, non ci sono, nell'agenzia non ci sono. Però poi ha detto, attenzione, no a generalizzazioni eccessive, nocive, rispetto e attenzione per il grande sforzo che moltissimi amministratori stanno facendo, svolgono in condizioni di difficoltà al servizio dei cittadini. Anche quando emergono fatti che concentrano l'attenzione critica della pubblica opinione e delle istituzioni dedite ad estirpare i fenomeni impropri, non dobbiamo mai arrivare a generalizzazioni che sarebbero nocive. E ricordo le parole che il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha pronunciato 2 giorni fa incontrando i presidenti delle regioni al Quirinale, e che sicuramente si estendono a tutti coloro che sono impegnati in tutte le istituzioni territoriali, perché accanto alla necessità di stroncare intollerabili fenomeni di abuso del denaro pubblico e di malcostume, ci sia il rispetto e l'attenzione per il grande sforzo che moltissimi amministratori compiono in condizioni di difficoltà al servizio dei cittadini. Abbassare, butterebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, butterebbe più ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, butterebbe più auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, più. Vabbè, torna, anzi non se n'è mai andata purtroppo, la nostra rubrica sugli sprechi di denaro pubblico. Intanto una notizia forte, ha detto oggi a Radio 24 questa mattina con Alessandro Milan e Roberto Formigoni, il presidente della Regione Lombardia, non intendo ricandidarmi, completerò 20 anni di mandato, intendo battermi come un leone per quello che ho fatto fino ad adesso, per respingere l'immagine di una Lombardia corrotta. Io ho capito, però il Consiglio regionale l'avete azzerato, salvando le cose straordinariamente positive che abbiamo fatto. Per noi parlano i risultati, io non mi ricandido. Quanto a Zambetti, l'assessore alla casa arrestato con l'accusa gravissima di aver pagato l'Andrangheta per ottenere 4.000 voti, Formigoni ha detto, io non l'avrei voluto nel 2010. Me l'hanno imposto, sostanzialmente me l'hanno consigliato Berlusconi e altri vertici del PDL. Aveva ragione il mio intuito, è stato fatto un errore, lo ripeto quello che ho detto più volte in questi giorni, Zambetti personalmente aveva giurato e spergiurato di non avere nulla a che fare, è stato uno spergiuro e questo mi dispiace ancora di più. Intendo battermi come un leone, come ho fatto fino adesso, per spingere lontana l'immagine di una Lombardia corrotta, salvando le cose straordinariamente positive che abbiamo fatto in 20 anni. Intanto però un po' di solidarietà ai consiglieri regionali lombardi che comunque dal 21 ottobre avranno formalmente diritto al vitalizio. In quella data infatti si arriva a metà legislatura e da quel momento i membri del Parlamentino lombardo avranno diritto a recepire all'età di 60 anni il vitalizio di 1.300 euro, somma che verrà corrisposta però solo se verranno versati i contributi, pari a 2.100 euro mensili per altri 2 anni e mezzo di legislatura. Però insomma non mi sembra male, perché tu versi 2.100 euro per 2 anni e mezzo e poi un vitalizio di 1.300 euro dai 60 anni in su, magari ti auguro di vivere 20 anni, ce l'hai per 20 anni, no, not bad, non male, Ma anche se poi cade il mandato dal 21 ottobre, ormai passato il 21 ottobre, potranno comunque riceverlo vitalizio i consiglieri regionali. lombardi, perché potranno versare come privati cittadini le somme dovute, quindi questi 2.100 euro al mese per 2 anni e mezzo, e se fanno così a 60 anni scatta comunque il vitalizio. Io non ho ancora capito, ma sono gnucco, perché ci deve essere un vitalizio per uno che per 5 anni fa il consigliere regionale. Non ho capito perché, ma non voglio far polemica, non ho capito. Il vitalizio si dà quando uno, dopo aver compiuto la mansione per anni, ha diritto a un vitalizio. Ma perché per 5 anni fa il consigliere regionale deve avere 1.300 euro al mese per, dai 60 anni in poi, tutti gli anni? Ti auguro di viverne 25, 30, 40. Però dalla prossima legislatura non ci sarà più, eh? È stato eliminato il vitalizio, deciso anche da altre regioni, eh? Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto e Piemonte. Mi manca, penso, la Val d'Aosta e poco altro, e la Calabria, non ho visto. Però diciamo che tutti a cancellare il vitalizio l'anno prossimo, va bene? Il prossimo mandato, non l'anno prossimo, il prossimo... Però due notizie buone, anzi, veramente buone. La prima, e qui sono serio, perché raccontiamo di tutti sti ladri, e adesso almeno raccontiamo di qualche persona onesta. La prima riguarda una signora vicentina di Sant'Orso, che tra l'altro vive in difficoltà economica, perché vive della sua pensione, che è molto molto risicata, ha trovato per terra 550 euro, non ha esitato a portare i soldi agli agenti della polizia locale di Alto Vicentino, che hanno poi rintracciato il proprietario. Ha trovato una busta con 11 banconote da 50 euro dentro, e alla fine si è riusciti a riferire al proprietario, che è una signora di Cornedo Vicentino. Allora, io non so se serve a qualcosa, no? Certo, se l'avesse trovata a Fiorito questa busta, no, l'avrebbe ridata anche lui. L'applauso per la signora ci vuole, dai. E poi adesso invece un'altra buona notizia, che questa volta riguarda il comune di Bologna, perché fa il coordinatore della giunta, l'assessore al marketing e anche l'assessore alle relazioni internazionali di Bologna. Ha 32 anni, si chiama Matteo Lepore, gira in panda a metano, non ha il pass per il centro, si paga i parcheggi di tasca sua e mette online i soldi pubblici che spende. Nonostante poi lui abbia anche le missioni all'estero della giunta, non ne spreca di soldi. Fino all'inizio anno 4.500 euro ha speso su un budget di 20.000, ed è stato in 6 posti a Utrecht, Bruxelles, Montreal. È tutto certificato, se mancano i soldi li mette in tasca propria. Ha creato un sito che si chiama Relazioni Internazionali di Trasparenza, www.matteolepre.it, e poi segna tutte le spese che compie, non so, ristorante a Bettola, menù fisso 15 euro, e poi ancora su Facebook tutte le indicazioni di quanto spende. Non ha l'auto blu, ripeto, neanche l'autista, e dice chi sta fuori dal centro deve prendere l'autobus o venire a piedi. Faccio notare appunto che ha speso per andare a Roma 118 euro, per andare a Milano 84 euro, è andato a Bruxelles per 2 giorni con 800 euro, a Utrecht con 750 euro tutto incluso, albergo e volo, a Montreal ha speso 1170 euro. E gli hanno chiesto come fa a non spendere per alberghi e ristoranti, perché me li pago da solo. Sarò un provinciale qualunquista, come scrive un ascoltatore, però averne di provinciali qualunquiste come questa donna o questo assessore, non staremmo ad avere la rubrica sui soldi pubblici. Allora, qui c'è un tema di correttezza nei conti pubblici, c'è anche però un tema di correttezza nei rapporti tra contribuente e Stato. Io ho fatto un balzo sulla sedia ieri quando il Sole 24 Ore ci ha chiamato per la riunione della sera e ha detto: abbiamo un'anticipazione con cui apriremo oggi il giornale, abbiamo scoperto che, parlo del quotidiano Sulle 24 Ore, che sono retroattivi i tagli agli sconti fiscali, mentre di retroattivo non c'è nulla nei tagli alle aliquote, ovviamente dal 23 al 22, dal 27 al 26. Chicco Padula del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Salvatore Padula, per Salvatore essere più corretti, ogni tanto anche io dormo. Allora, poi arriviamo dopo il meteo al tema, ma insomma è così, perché c'è una risposta molto piccata, se mi ridai l'agenzia che ti ho dato la leggo anch'io, grazie. C'è una risposta molto piccata del ministro Grilli, proprio al Sole 24 Ore, che dice... attenzione, non è vero che vi saranno più effetti negativi che positivi sulle tasche degli italiani. Il taglio delle detrazioni vale 1 miliardo rispetto ai 6,5 che daremo al paese tagliando l'IRPEF sulle aliquote più basse. Quindi ci sono 5,5 miliardi che entrano nelle tasche degli italiani. Una risposta, Grilli? Ma la risposta è che il ministro purtroppo dimentica che all'interno della manovra ci sono anche misure che dal 1 luglio 2013 aumenteranno l'IVA. Sappiamo che l'aliquota del 10% passerà all'11% e quella del 21% passerà al 22%, che è un giochetto che mal contato potrebbe costare intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro. Quindi diciamo che se anche quello che sostiene il ministro è vero, cioè che ci sarebbero circa 5 miliardi e mezzo in più di vantaggi IRPEF, è evidente che questi vantaggi IRPEF saranno in gran parte, anzi direi quasi per la totalità, mangiati dall'aumento dell'IVA. Quindi insomma penso che la manovra, la legge di stabilità debba essere valutata nel suo complesso e il risultato finale temo insomma sia quello di almeno di un saldo zero, cioè insomma il fisco restituisce qualche cosa attraverso la riduzione delle aliquote IRPEF e se lo riprende attraverso il taglio agli sconti fiscali di cui abbiamo dato conto oggi, retroattivo insisto, attraverso l'aumento delle aliquote IVA. Ecco, ci arriviamo anche perché oggi su Sole 24 Ore avete fatto il calcolo tra quanto ci perdo io come contribuente con l'aumento dell'IVA di un punto percentuale al 22 e quanto ci guadagno con la diminuzione delle aliquote IRPEF. Esatto. Dico subito che ci perdono tutti, con buona pace del ministro Grilli. A questo punto, se il vostro calcolo è giusto, e facendo parte del gruppo Sole 24 Ore, devo dire che è giusto per forza, no, ma lo è, a parte gli scherzi. Presidente del Consiglio Mario Monti, ma quale ha fatto un'altra manovra di tasse sugli italiani? Diciamola tutta, dai, tanto non ci sente nessuno. Ma con quello che leggeremo dopo, questa, altro che legge di stabilità e fisco, questa è una legge per aumentare le tasse, perché il trade-off, la differenza tra quanto ci perdo e ci guadagno, vuol dire che devo pagare più tasse. Basta dirle le cose come stanno e non parlare di una ripresa nel 2013 che però poi adesso diventa l'Expo del 2015. Il calcolo fatto oggi dal Sole 24 Ore, perché già avevamo capito che era una manovra correttiva, e vabbè, c'era rimasto il dubbio, la speranza che lo scambio tra abbassamento dell'aliquota IRPEF dal 23 al 22, dal 27 al 26, in cambio, tra virgolette, dell'aumento dell'IVA al 22%, ci avrebbe... sarebbe stato un gioco a somma zero, cioè uno non ci avrebbe perso. Invece scopriamo sul Sole 24 Ore di oggi che A, non solo c'è un aumento della tassazione, B, è che le norme sulle detrazioni e deduzioni sono retroattive, e adesso ce lo spiega Salvatore Padula, mentre i ritocchi e le aliquote entreranno, praticamente li vedremo dal 2014 perché finiranno nella dichiarazione del 2013. Cosa vuol dire che queste norme sono detrattive, retroattive, oltre che detrattive. Sono molto detrattive. Sono molto detrattive e soprattutto in quanto retroattive. E anche retroattive. Ma semplicemente vuol dire che queste restrizioni, queste limitazioni, si applicano già sul reddito di quest'anno, del 2012, quindi, e sono retroattive, tanto che la norma che abbiamo... commentato oggi sul giornale, prevede una deroga esplicita allo statuto del contribuente, cioè esplicitamente questa bozza di legge, di provvedimento, dice in deroga allo statuto del contribuente queste norme si applicheranno già a partire dall'anno d'imposta 2012. Quindi noi che siamo ormai insomma verso la fine dell'anno mancano meno di 3 mesi, scopriamo che per quest'anno d'imposta avremo una riduzione alla limitazione sugli sconti fiscali sui benefici che si applica soprattutto a chi aveva per esempio dei mutui, no? Sì, che agisce su alcune voci di oneri deducibili e di spese detraibili, tra cui quella che hai citato tu, gli interessi passivi sui mutui, che non riguarda tutte, certo. Per esempio sono esclusi i contributi previdenziali, sono escluse le spese sanitarie, eccetera, che però, insomma, diciamo, il principio è di per sé abbastanza strano e bizzarro. No, anche perché appunto derogare vuol dire sospendere, spiegavano tutti, quello che prevede lo statuto dei contribuenti, e cioè che in uno stato di diritto, in uno stato civile, qualunque modifica alla tassazione non può avere un effetto retroattivo, cioè non posso scoprire che quest'anno devo pagare più tasse di quanto stabilito all'inizio dell'anno nella dichiarazione, perché magari ho fatto i miei conti, cioè, ma è un principio di convivenza civile. Mario Monti, lei viene dall'Europa, ha fatto il commissario europeo, ha un aplomb lombardo, insegna alla Bocconi, è stato preside alla Bocconi. Non ci si comporta così nel resto d'Europa, dando misure retroattive, no? E neanche dicendolo, perché la cosa che mi manda più in bestia è che nella conferenza stampa il ministro Grilli, il premier Mario Monti, potevano dirlo: signori, la situazione d'emergenza, vi beccate questo, diciamo, forma di volatile per diabetici che arriverà nel 2012. Ebbene, insomma, non ha detto nulla a nessuno, se non ve ne accorgevate voi. Questa è una cosa incredibile, così come trovo incredibile che tra le varie strette, se ho ben capito, hanno ridotto anche i vantaggi che esistevano quanto alle detrazioni per chi assisteva un parente con grossi problemi di salute, o soprattutto, insomma, anche con grossi problemi di disabilità. Ho capito bene? Sì, diciamo una cosa leggermente diversa, però sì, il senso è esattamente quello. È previsto che le persone che assistono, diciamo, parenti che siano, insomma, gravemente malati o disabili, abbiano diritto ad avere, insomma, dei permessi sul lavoro. Ecco, viene introdotta per i dipendenti pubblici una disciplina molto più stringente che ridurrà lo stipendio, di fatto lo dimezzerà, nei giorni in cui verrà prestata assistenza alle persone, diciamo, disabili. Quindi effettivamente, insomma, una norma... No, dico, perché alcuni ascoltatori, alla parola retroattive, non ti dico che tipo di calembur stanno facendo, perché dicono che sono attive da retro. Sì, addirittura un libro sugli sms più creativi. No, devo dire che le misure fiscali, che essere più che retroattive, ma attive da retro, almeno ci avete fatto sorridere, perché oggi... Allora... Il governo deve essere trasparente e dire quando aumenta le tasse, e dire, non dire abbiamo eliminato l'IVA dalla bozza, facciamo la manovra per non dover aumentare l'IVA, poi aumenti l'IVA e scopriamo pure che metti le detrazioni, i limiti che metti alle detrazioni e le deduzioni fiscali sono retroattivi, per cui uno se li becca e basta. C'è di più, voi avete fatto oggi un calcolo su Sole 24 Ore, andando a vedere lo scambio tra aumento dell'IVA per una famiglia e riduzione dell'IRPEF dal 23 al 22, dal 27 al 26%. Allora, single con meno di 35 anni e 30.000 euro di reddito, e quindi non un politico italiano, se mi pensate la battuta, perché no, dico sul reddito soprattutto, vabbè. Guarda, la differenza, forse, vai. Diciamo, diamo la regola generale, perché poi mi sembra che in tutti i casi, gli esempi che abbiamo fatto, succeda così. Nell'anno 2013 si viaggia più o meno pari, quindi la riduzione IRPEF, aumento dell'IVA solo per 6 mesi e taglio alle deduzioni più o meno si equivalgono. A partire dal 2014, cioè l'anno in cui l'IVA sarà intera, tutte le categorie che abbiamo esaminato andranno a pagare di più. Magari non si tratta di cifre enormi, si può arrivare, diciamo, a 150, 200, 250 euro, magari per le famiglie più benestanti. istanti, però insomma resta il esattamente quello che dicevi tu, insomma una manovra che ci è stata presentata che avrebbe dovuto avere come obiettivo quello di iniziare un percorso virtuoso di riduzione del prelievo, in realtà almeno da questi primi conti fatti sulle bozze eccetera non abbiamo ancora visto versioni definitive, però alla luce di questi calcoli insomma ci si perde, ecco. Allora le dico tutte: single con meno di 30, sono esempi, con meno sono di 35 esempi, anni sì. E 30.000 euro di reddito gli costeranno 16 euro in più, perché avrà 164 euro in meno dall'IRPEF e 180 euro in più di IVA da pagare. Stiamo ragionando chiaramente su una spesa media, poi se uno cambia la macchina quell'anno ci perde ancora di più. Sì, sì, abbiamo preso la spesa media dell'Istat in relazione, esatto, alle diverse categorie. È ovvio che se devi cambiare la macchina quest'anno o cambiare un bene durevole, un frigorifero, una lavatrice, l'1% dell'IVA ti fa sballare questo calcolo. Coppia senza figli, reddito 70.000 euro, 17 euro in più. Sono 342 di IRPEF e 300 in meno e 359 di IVA. Ripeto, con il piccolo particolare che se fai una spesa importante questo calcolo salta, perché l'1% di IVA applicatolo su una spesa di qualche migliaio di euro è chiaro che questo è se tu non acquisti nulla di significativo e compi una spesa media come tutti gli anni, questo è quello che vai a pagare. Coppia di mezza età con due figli e 60.000 euro di reddito, 160 euro in più. E che in effetti 60.000 euro di reddito in due con due figli è tanta roba. 160 euro di reddito, quindi niente caviale e champagne, perché sono 237 euro di IRPEF in meno, ma 400 euro di IVA in più. Coppia di mezza età con un figlio e 35.000 euro di reddito, 118 euro in più, perché risparmia 137 euro di IRPEF e 255 euro di IVA in più che deve pagare, il tutto al netto di spese importanti per i prossimi anni, spese grosse. Mi sembra chiaro che c'è una manovra fiscale ulteriore e che va a colpire anche, voglio dire, una coppia di mezza età con 35.000 euro di reddito e un figlio, ma voglio dire, stiamo parlando mica di ricchi, cioè sta roba qua alcuni consiglieri regionali se la sbaffano in una settimana. E allora 118 euro, hanno ragione molti ascoltatori, non è mai retrattivo nulla di quello che riguarda la politica, i vitalizi non sono retroattivi, giusto. Hanno ragione, da vendere, non è populismo, non è possibile che aumentare le tasse, o di fatto, perché se tu riduci le detrazioni mi aumenti le tasse, sia retroattivo, i vitalizi sempre dalla prossima legislatura, e continuiamo così. No, mi date Quinto Potere e Vasco Rossi, perché questa oggi ci vuole. Vai. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. E a tutti quelli retroattivi e a queste misure, manovre attive da retro, noi speriamo che il Parlamento corregga queste cose, perché non si può arrivare mascherando una manovra di tasse dicendo che era una legge di stabilità e fino alla sera stessa ci abbiamo creduto. Premier Monti, Ministro Passa, il piano sviluppo, sono quattro cosette, l'agenda digitale, le start-up, e poi ci arriva l'ammazzata così, ma ve la ridiamo indietro l'agenda digitale. Salvatore Padula, grazie al lavoro che avete fatto sul Sole 24 Ore. No, perché piano di sviluppo non si vede, abbiate pazienza, mentre qua le tasse continuano a aumentare. Rigor mortis o rigor montis, borsa. Borse tutte leggermente negative, meno 0,80% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,70% Francoforte e meno 0,60% Londra. Un leggero peggioramento nel finale, da noi molto bene, ma anche a Parigi ST Microelectronics più 6,5% e Mediaset su voci di avvicinamenti a Publitalia più 2,35%. Negative invece Saipem meno 5,60%, Exor meno 2,40%, Fiat meno 2%. Come la Popolare di Milano. Ipotesi forti nonostante le smentite su ST Microelectronics, che guadagna 6,5%, perché è arrivata a guadagnare anche il 12-13% per ipotesi di uno scorporo. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Scorporo di che? Scorporo della business unit che produce microchips. Si è diffusa questa notizia, repentinamente le azioni che peraltro questa mattina perdevano terreno perché anche la concorrente americana AMD ha pubblicato conti poco esaltanti, appunto hanno virato al rialzo, sono arrivate a guadagnare il 16% a Parigi, ricordiamo che è quotata anche a Parigi addirittura il 18%, poi hanno chiuso più 6-5% perché è arrivata la smentita. Il mercato ci crede ma non troppo, perché le azioni alla fine comunque sono salite di questo 6,5%. Si ritiene infatti che i vertici dell'azienda abbiano allo studio un riassetto della società e vedremo da qui a fine anno che cosa accadrà. Ancora andando avanti con i titoli, il peggiore invece è Saipem. E qui c'è un taglio nel voto sul titolo, meno 5,60%. Esatto, Nomura, la banca d'affari Nomura ha rivisto al ribasso il giudizio, ma soprattutto perché ha messo in conto l'impatto dei ritardi di progetti offshore, che impatto negativo sull'utile del 2013 e anche del 2014, e quindi hanno consigliato alla propria clientela di vendere le azioni prima che i vertici della società, magari in occasione della pubblicazione della trimestrale in calendario questo mese, possano effettuare l'annuncio. Andiamo avanti con i titoli. Oggi in positivo anche Mediaset, dicevamo su ipotesi più 2,35% su ipotesi di un avvicendamento, di un cambio ai vertici di Publitalia. Sì, infatti Publitalia, ricordiamo che è l'azienda che raccoglie la pubblicità per il gruppo, proprio la pubblicità ovviamente è il nodo focale della società, quello per cui le azioni hanno perso quota, e si parla di Stefano Sala che adesso è alla testa del gruppo internazionale VPP, sempre nella raccolta della pubblicità, che potrebbe essere tra i potenziali candidati al timone di Publitalia. Su questa notizia i titoli oggi hanno riguadagnato terreno, hanno chiuso in progresso, come hai detto tu, del 2-3%. Andiamo avanti con altri titoli. Beh, vediamo Camfin. Dopo quello che è successo ieri, oggi invece Tronchetti indagato per ricettazione, il titolo? Camfin, andamento volatile. Camfin è la finanziaria di controllo del gruppo Pirelli, chiaramente. Esatto, andava bene questa mattina perché si era diffusa la voce che in un breve lasso di tempo, in un batter d'occhio, il bond da 150 milioni sia stato tutto collocato. Poi sul finale, anche a causa delle prese di beneficio, i titoli hanno lasciato sul parterre il 5,8%. Ricordiamo che il consiglio di amministrazione della società ha varato questo bond convertibile in azioni Pirelli, e per quanto riguarda la Pirelli le azioni hanno perso oggi l'1,75% in quanto il bond avrà un lieve impatto dilutivo ovviamente nel caso in cui sarà convertito appunto in azioni Pirelli. Migliori e peggiori, sale molto oggi Pininfarina più 10,80, Seat pagine gialle più 8,20, Carraro più 7,20, tra i peggiori, beh, di Camfin dicevamo meno 5,81, Sintesi meno 13%. Le banche oggi in mattinata soprattutto andavano bene, poi invece hanno perso: il Banco Popolare lo 0,81, Intesa San Paolo lo 0,90%, la Popolare di Milano 2%, ma c'era l'ipotesi che potrebbe essere rinviato, io me lo auguro assolutamente, il lancio di Basilea 3, cioè esatto, quell'insieme di regole che, la dico tutta, porteranno le banche a dover accantonare, adesso non posso spiegarlo tutto, però nuovi criteri contabili che porteranno le banche a dover mettere più soldi da parte quando prestano dei soldi a chi ha un elevato livello di rischio, ma in sostanza, in definitiva, vanno a penalizzare tutti i prestiti alle piccole imprese, a chi non ha grosse strutture dietro, per cui un effetto ulteriormente prociclico, cioè di aumentare la recessione. Esatto, questa mattina i titoli delle banche in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa, erano tutti in evidenza, salivano soprattutto a metà mattina dopo che si è diffusa questa indiscrezione, rilanciata anche da un'agenzia di stampa, secondo la quale si è rinviata la tempistica di Basilea 3, che dovrebbe in realtà entrare in vigore al gennaio 2013. Sì. poi nel pomeriggio, siccome non è stata confermata né smentita la cosa, si è tornati a ragionare su ovviamente una serie di nodi importanti in Europa, nodi sul debito in primis, anche sul fatto che la Spagna possa chiedere un pacchetto di aiuti. Magari, è un mese che aspettiamo che la Spagna chieda questi aiuti, ma non capiamo se, quando e come lo farà, e questo aumenta l'incertezza, ma è un altro tema. Intanto grazie e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi torniamo non solo sui temi di apertura, quindi lo scoop del Sole 24 Ore, ma anche e soprattutto su quello che sta diventando un dato chiaro. Il Fondo Monetario Internazionale due giorni fa ha detto: beh, in effetti le misure che abbiamo chiesto, perché fa parte assieme all'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, della Troica per esempio, che va a chiedere le cose alla Grecia, hanno avuto un effetto ulteriormente recessivo, e oggi è tornato ad ammettere, beh, forse, devo prendere la frase esatta perché è bellissima, dopo quello che abbiamo attraversato in questi anni, il Fondo Monetario Internazionale dice le misure chieste, le misure di austerità adottate nel mondo hanno avuto effetti più forti di quelli previsti, con la conseguenza che ci sono 30 milioni, lo dice il Fondo Monetario, di disoccupati in più dall'inizio della crisi, e che dei 200 milioni di disoccupati nei paesi occidentali, 75 milioni sono giovani. Allora chiedo aiuto a un osservatore, oltre che economista, lo dico con massima sincerità, mai banale, mai allineato, e mi riferisco questa volta al professor Gustavo Piga, che è docente di politica economica all'Università di Roma Tor Vergata. Buonasera professore. Buonasera, come sta? Bene, insomma, meglio io del contribuente medio italiano, diciamo. Ma così. Ma non solo del contribuente, anche del lavoratore medio italiano. Del lavoratore che è anche contribuente, diciamo. In molti casi, non in tutti, però è meglio io anche della Grecia. Però partiamo da quello che ha scoperto Sole 24 Ore, perché ne abbiamo parlato in apertura, ma insomma, misure retroattive sulle detrazioni, il Sole ha fatto un calcolo, il ministro Grilli ha risposto in maniera un po' piccata, ha detto no, ma noi mettiamo 5 miliardi e mezzo che entreranno nelle tasche degli italiani, però non ha tenuto conto di quello che uscirà per via dell'IVA. Allora, la mini manovra dell'altro ieri, perché abbiamo capito che è stata una manovra correttiva, avrà effetti secondo lei ulteriormente recessivi? Ma guardi, lei l'ha detto prima, se le guarda i numeri parlano, però non c'è la relazione tecnica, ma stiamo parlando di 0,2-0,3% di prodotto interno lordo. Ieri sera in televisione Barca si sbracciava, il ministro Barca, dicendo no, questa manovra non ha impatti, 0,0, insomma siamo vicini allo zero, comunque è un meno 0,3% per cento in senso restrittivo. Se prendiamo gli studi che lei menzionava del Fondo Monetario Internazionale, che dicono che esiste qualche cosa chiamato moltiplicatore della spesa pubblica e della tassazione, vuol dire che aggiungiamo a queste disastrose statistiche, che io le vorrei ricordare, nel 2011 noi prevedevamo per prodotto interno lordo 2012 più 1,2%. È vero. Facciamo meno 2,6. Quest'anno chiudiamo a meno 2,6, un errore di previsione di 3,8%. Ora, qui è anche vero che di errore di previsione non si tratta, perché loro sanno benissimo, hanno i modelli giusti per prevedere queste cose. C'è la conta balla. Qual è il problema? Che se Monti si mette a dire nel 2011 guardate che l'anno prossimo la crescita sarà del meno 2,4%, lei si immagina cosa fanno tutti gli imprenditori? Continuano a peggiorare nelle loro aspettative, fanno ancora meno investimenti del meno 8% che c'è stato nel 2012. Quindi il problema ovviamente non Però se seguiamo questo ragionamento, professor Piga, adesso io inizio a dire nei prossimi giorni che cresceremo del 5% nel 2013, ripartono gli investimenti e diventa una profezia che si avvera, no? No, ma il punto vero è che adesso bisogna cominciare a dire la verità. La verità è semplice: se fai meno 0,3, meno 6 miliardi di pacchetto fiscale recessivo, il moltiplicatore in una recessione, ci dice il Fondo Monetario, è più di 1. Circa 2, quindi ti devi aspettare un ulteriore peggioramento del prodotto interno lordo di 0,3-0,4-0,5%. Ora si immagini lei cosa succede alle statistiche per cui facciamo tutte queste operazioni chiamate debito pubblico su PIL e disavanzo su PIL. Il paradosso è che queste statistiche peggiorano. Lei prima parlava di veri aiuti, c'è un solo vero aiuto che è compatibile anche con l'interesse tedesco, è che questo continente si rimetta a fare espansione per tutti. Se i tedeschi hanno un abbassamento delle tasse, è un aiuto che loro danno a tutto il resto dell'area dell'euro ed è un aiuto che danno a se stessi. Noi abbiamo bisogno ovviamente di fare delle cose più moderate dell'area dell'euro del nord, ma abbiamo certamente bisogno, anche per la salvezza dei nostri conti pubblici, di avere ovviamente delle politiche che non mettano il segno meno ogni volta, sì, ma che mettano il segno più. Allora, dopo il traffico ci ritorno. Comunque, per sintetizzare, lei dice attenzione perché c'è un effetto che si innesca a spirale, diciamo moltiplicatore, dice lei, per cui se tu hai un'economia che già va male e quindi consumi ai minimi dal 46, aziende che vivono solo se riescono a esportare e quant'altro, tasse in aumento, se tu unisci altre tasse, cioè hai effetti prociclici, vuol dire che tu aumenti l'intensità di un ciclo che è già negativo, è chiaro che tutta la manovra che stai facendo per portare al pareggio di bilancio, al deficit pari a zero nel 2013, ti salta perché è un rapporto tra deficit e PIL. Se il PIL peggiora più del previsto, è chiaro che il rapporto continuerà a essere negativo e quindi è un cane che si morde la coda e devi rinseguire altre manovre per avere, Marx la chiamava, se non ricordo male, la terza crisi del capitalismo, ma comunque quello che capitò poi in parte nella Germania del 29-30-31. Allora, professor Piga, le faccio alcune domande di misure che invece potrebbero essere anticicliche, cioè interrompere questa spirale negativa, per cui se tu continui a tagliare e a tassare, il PIL cala di più, tu sei obbligato a fare altre manovre perché il rapporto deficit-PIL non è quello che tu puoi accettare. La spending review, il patrimonio pubblico inteso come vendite di alcune proprietà e l'accordo con la Svizzera sui 170 miliardi circa depositati lì in maniera nel 90% dei casi illegale. Guardi, la spending review è potenzialmente un ottimo strumento per trovare fondi e a quel punto si pone il problema di come li usa questi fondi. Quindi la spending review quando è che si usa? Si usa quando tu hai bisogno di trovare delle risorse per finanziare altre cose e non puoi ricorrere al debito, quindi la spending review sembrerebbe lo strumento ideale per l'Italia. Qual è il problema? E io non credo che questo problema ancora l'abbiamo risolto, che devi tagliare non a casaccio, ma devi tagliare gli sprechi. Quindi se sei bravo a tagliare veramente gli sprechi, quello che stai facendo è non stai peggiorando lo stato dell'economia, semplicemente perché stai tagliando un trasferimento dal contribuente all'imprenditore che ci guadagna di più, e quelle risorse te le prendi e ci fai cosa? La mia impressione è che in questo momento le risorse sono prese da tagli che non necessariamente vengono sugli sprechi, e quindi per esempio stai tagliando servizi sociali, per esempio qualcuno non può più comprare un'ambulanza, e se non puoi più comprare un'ambulanza c'è qualche operaio che non produce più ambulanze, quello si chiama peggiorare la recessione. Certo è che se invece tagli l'ambulanza che costa troppo, quei soldi sono un potenziale regalo che tu fai. Che ci fai con quel regalo? La mia impressione di nuovo qua è che quei soldi li prendi e ci riduci il debito. Se quei soldi li prendi e ci riduci il debito, tu non stai dando stimolo all'economia e alle imprese. Il punto chiave è usare quei soldi per farci più spesa. E ce l'hai la volontà di farlo? Ce l'abbiamo la volontà in Europa di cambiare il modello come ci sta chiedendo il Fondo Monetario Internazionale? Io vorrei ricordare, e poi passo alla questione del patrimonio, che se gli Stati Uniti vanno in una recessione del 2%, è un po' diverso se il problema è l'area dell'euro che va in una recessione dell'1%, per un semplice motivo, che se i paesi uno o due paesi dell'area dell'euro vanno troppo in recessione, questi paesi si disamorano dell'euro e fanno saltare tutto il progetto politico. Gli Stati Uniti si possono permettere ormai dei livelli di recessione, e comunque non lo fanno perché ci stanno attenti, che noi invece non ci possiamo permettere. Se lei guarda i dati tra Stati Uniti e Europa, non è che gli Stati Uniti stanno andando molto meglio di noi, stanno andando come noi. Il problema è che loro se lo possono permettere, noi assolutamente no, perché se ci salta la Grecia, salta il Portogallo, se salta il Portogallo, salta la Catalogna, e se salta la Catalogna, mi fermo qua. La seconda cosa, sul patrimonio, non serve assolutamente a nulla per due motivi. Uno, le risorse che noi possiamo detenere, malgrado tutte le aspettative ottimistiche, se lei parla con gli esperti, sono cifre piccole. Se siamo fortunati arriviamo a 10 miliardi di euro. Vabbè, meglio che un calcio sugli stinchi. Meglio che niente, lei dice, no, giustamente. Ma allora, lei pensa che si abbatteranno gli spread se lei riesce a abbassare di 10, 20, 30 miliardi il debito pubblico italiano? Io le ripeto, perché gli spread sono alti sull'Italia? Perché l'Italia è percepito come un cattivo debitore. Adesso cerchiamo di tornare a perché è percepito come un cattivo debitore. Lei immagini di essere un cattivo debitore che va in banca e dice al banchiere: guarda, bellissima notizia, mia nonna è morta, mi ha lasciato un'eredità, ti posso rimborsare tutto quel debito. E il debitore, il banchiere, tutto contento, io guardo il banchiere e gli dico: adesso mi presti a dei tassi più bassi? Il banchiere ovviamente lo guarda in faccia e dice: no, mi dispiace, io continuo a prestarti a questi tassi, perché tu sei comunque un imprenditore, debitore, non affidabile. Allora la questione chiave è: se noi riduciamo il debito di 10-20 miliardi di euro, appariamo più affidabili al resto del mondo? Secondo me assolutamente no, per un semplice motivo, che abbiamo smesso da 12 anni di crescere economicamente. E i mercati, quando vedono un paese che non è capace di crescere e quindi di generare anche quelle entrate fiscali che ripagano il debito, scappano a gambe levate. E se tu vendi patrimonio, non è che sei diventato... Sì, l'esempio della banca va bene. Cioè, una banca è disposta a prestare e aumentare anche i suoi prestiti a un imprenditore quando vede che i suoi affari girano, che il fatturato aumenta, anzi è contenta di finanziarti perché vuole partecipare alla tua crescita di fatturato e utili. Al contrario, non ti finanzia nemmeno se metti impegno le cose tue più care, se ritiene che la tua attività continuerà ad andare male. E quindi lei dice: se non facciamo ripartire il PIL, quindi il fatturato di questo paese, non miglioreremo la nostra posizione, perché nessuno ci presterà dei soldi a tassi di interesse minori finché vedrà che l'Italia fa un meno 2,6, l'anno prossimo per ora meno 0,3% e così via. Tant'è che oggi Prometeia chiede e dice: beh, l'Italia dovrà chiedere aiuto al fondo ISM. Mi dica una cosa per concludere, perché ho ancora un minuto. Il panorama europeo invece, perché ci siamo occupati molto, ahimè, di regioni italiane, di manovra di Mario Monti e quant'altro in questi giorni, abbiamo un po' tralasciato l'Europa. Si sta, complice l'iniziativa di Mario Draghi, secondo lei, rasserenando dopo, insomma, il via libera al fondo ISM, o stanno tutti attendendo di capire cosa farà la Spagna? Il fondo ISM non serve a niente fino a quando continuerà, aspetti, fino a quando continuerà a essere, gli aiuti continueranno a essere condizionati all'austerità. Non serve a nulla, perché se lei dà con una mano dà, tra l'altro dà cosa? Dà delle cose che forse faranno abbassare gli spread. Il punto chiave è: se scendono i tassi di interesse, le imprese e i consumatori in questo ambiente vogliono spendere e investire di più? Secondo me no, ma certamente se tu gli continui a dire: ti do dei fondi, però devi continuare con l'austerità, non se ne esce proprio. Guardi che oggi è stato, la notizia che è passata in silenzio è stato il Nobel dato all'Unione Europea. Nelle motivazioni date all'Unione Europea sono chiarissime: uno, non l'abbiamo dato all'area dell'euro; due, lo diamo all'Unione Europea per il processo di democrazia e pace che ha fatto malgrado le politiche economiche fatte adesso. Quindi chiaramente noi dobbiamo dare il Nobel all'economia, all'Unione Europea, e questo non lo possiamo dare adesso, perché stiamo facendo tutto il contrario di quello che noi insegniamo nelle aule universitarie quando c'è una crisi da domanda di questo tipo. Il crimine è farlo in un momento in cui rischiamo di far saltare la cosa più importante che abbiamo fatto dal dopoguerra in poi, cioè quella per cui hanno dato il premio Nobel, l'Unione Europea, il processo di pace. Cioè, lei dice la terapia di tagli è come dire a un malato di mettersi a dieta a uno che è già ammalato e ha già problemi suoi, peggiori della sua malattia. La dieta la fai quando stai bene, non quando stai male. Se posso sintetizzare in una battuta, mi dice sulla Svizzera, irrilevante? No, non è irrilevante, c'è anche un problema crescente negli Stati Uniti, ma che arriverà poi in fondo anche nell'Unione Europea, di equità, che è anche un problema politico, e quindi no, sono invece misure molto importanti. Beh, speriamo che almeno Monti si muova sulla Svizzera, o come accordo europeo o come accordo italiano. Grazie al professor Piga, da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.